Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Le lettere dal fronte arrivavano con una certa regolarità ed erano sempre allegre, anche quando davano notizia che era morto il tale o il tal'altro. Era come messaggi che arrivassero dal nulla, perché non recavano mai indicazioni di luoghi. Donna Vincenza chiamava con aria perché le leggesse tra le righe, ben sapendo che erano, come si diceva, censurate, e Gonaria non sarebbe stata capace di dirle una bugia. Così, un giorno dopo l'altro, la guerra diventò un'abitudine. Era una cosa lontana che poteva anche non finire mai, come sembrava senza fine quello stato di pace nel quale fino ad allora Nuoro era vissuta. Di quando in quando accadevano terribili cose, un piroscafo di quelli che univano la Sardegna al continente era stato silurato ed erano morte 500 persone. Un attimo di stupore, poi nulla. Molti non sapevano neppure contro chi la guerra si combattesse, né dove si trovavano quei posti che ogni giorno venivano a galla nei bollettini che attaccavano alle vetrine del caffè Tettamanzi. Fin dai primi giorni il governo aveva mandato al confino una ventina di persone che si erano sparse per il paese. Non si capiva chi fossero. Poi si seppe che erano ebrei austriaci e tedeschi, i quali risiedevano a Milano e non avevano voluto lasciare l'Italia. Nessuno, fino a quel giorno, aveva mai sentito nominare gli ebrei fuori della Bibbia. Erano uomini come gli altri, ma erano signori, danarosi. E se qualcuno di quei socialisti imboscati diceva che in buona sostanza erano traditori del loro paese, i nobili, che avevano fiuto fino, aprivano loro le case come a ospiti d'onore. I soli miserabili che avevano mandato erano una famiglia di mezzi zingari, due sorelle e un fratellino di 12 anni, poco meno che scemo, che appena sceso dal treno si mise a trottare come Raffaele gridando «Cilolaici!» e Cilolaici fu il suo nome. Dovevano essere slavi e non si capiva come si fossero disturbati a confinarli perché non sapevano nemmeno da dove venivano. Le sorelle potevano procurarsi da mangiare e se lo procuravano facendo la concorrenza a Gigia su per le macchie di Sant'Onofrio. Il ragazzo viveva di fame. Don Gaetano Pillori, il tabaccaio che aveva anche il recapito dei giornali, ne ebbe pietà e lo assoldò come strillone. Era poco per vivere, ma era qualcosa, ed egli trottava alternando il titolo del giornale al suo Cilolaici, facendo ridere tutti. Solo che venne l'inverno, il crudo inverno di Nuoro. Cilolaici, che era mezzo nudo, cominciò a tossire, a sputar sangue, ad avere febbri altissime. In breve, morì. Il cimitero di Nuoro, che aveva le braccia larghe, lo ricevette. Nessuno sapeva da dove veniva, come nessuno sapeva dove andava. E poiché non aveva un nome, non si sapeva neppure se fosse veramente esistito. La guerra era estranea e lontana, ma doveva avere una grandissima influenza sulla Sardegna, perché i sardi scoprivano l'Italia, seppur non scoprivano gli uomini. Tutto ciò, peraltro, apparteneva al futuro. Le notizie di Peppino, intanto, parevano buone. Lo avevano mandato in una scuola di allievi ufficiali e, siccome c'era fame di uomini, in 15 giorni aveva conseguito il grado, istituito appositamente, di aspirante, uno dei soliti compromessi burocratici per creare ufficiali di fatto e gettarli nella mischia. Quel che donna Vincenza non sapeva, doveva raccontarlo dopo lui stesso, era che Peppino, infagottato da mezzo ufficiale con le scarpette civili ai piedi, poiché l'esercito mancava di tutto e ancora col suo Valmichi in testa, fu mandato subito in zona di guerra e là si era presentato a un generale coi mustacchi che gli aveva detto «Ah, tu sei un aspirante? Vai in trincea a aspirare». Si era avviato a piedi sotto la pioggia scrosciante su montagne di fango rosso che gli toglievano il respiro. Dopo mezz'ora le suole si staccarono come recise da un coltello. Andò avanti scalzo tutta la notte. Al mattino, quando arrivò in trincea, era tutto una piaga. Tra i soldati Vi erano alcuni nuoresi che riconobbero il figlio di Don Sebastiano. Gli fasciarono i piedi, lo ristorarono. Stette in un antro tutto il giorno. Verso la sera gli scoppiò la febbre. L'indomani era peggiorato. Vennero a prenderlo in portantina e lo ricoverarono in ospedale. Dall'ospedale egli scriveva e raccontava della sua lieve indisposizione, che lo teneva lontano dal fronte, ma presto sarebbe guarito e sarebbe tornato a casa in licenza. Donna Vincenza diceva a Gonaria che si sentiva l'animo molto triste, ma Gonaria parlava con Dio, la rassicurava. A ogni lettera Don Sebastiano inforcava il cavallo, Ludovico diceva che era tutto nulla in confronto a quello che egli soffriva. Sebastiano guardava i libri che Peppino gli aveva lasciato in custodia e piangeva. Finalmente un giorno giunse un telegramma nel quale Peppino annunciava che sarebbe presto tornato con una lunga licenza. L'aurora illuminò il viso devastato di Donna Vincenza. Chiamò a raccolta tutte le donne, le testimoni della sua infanzia e della sua felicità, e le impegnò a preparare tutti i manicaretti nuoresi, sas casadinas e sas ebadas, gli antichi dolci di formaggio fresco pazientemente lavorato, sos culurgiones fatti di mandorle e di limone, sos maccarones cravaos, i piccoli gnocchi schiacciati con l'unghia. Gonaria aveva promesso per il giorno dell'arrivo uno di quei dolci per i quali era tanto famosa. Tutta la casa, per una settimana, odorò di pasta e di miele. E finalmente l'attesa finì. Era un mattino di aprile così mite che la guerra diventava un brutto sogno dissipato nelle trasparenze del cielo. L'orto di Borghesi, quello dove ora sorgono i palazzoni della provincia, era tutto una cortina di mandorle in fiore. Don Sebastiano andò per tempo alla stazione vestito di nero, col gilet attraversato dalla catena d'oro, cosa che non aveva mai fatto per i ritorni dei figli. Ma questo tornava dalla guerra. Quando il treno si fermò, emerse dall'unica vettura rossiccia uno spettro. Avanzò barcollando verso il padre, che era rimasto di pietra, ma subito si riscosse e capì che non avrebbe potuto fare a piedi il breve cammino fino a casa. Allora mandò da Giovanni Maria, quel nipote che Donna Vincenza aveva cacciato di casa, pregandolo di inviare una carrozza, e a Giovanni Maria non parve vero di rientrare nelle grazie dello zio. Nell'immenso assurdo atrio di Don Gabriele Mannu apparve ancor più spettrale alla madre, che gli era andata incontro quasi agilmente. Non restava che portarlo a letto, sospingendolo su per le scale, nella stanza che aveva fin da bambino condivisa col minor fratello. Ludovico apparve per un attimo per dire che non era nulla, che il malato era lui, e là fu lasciato solo col piccolo Sebastiano, che pareva non essersi accorto di niente ed era orgoglioso di questo suo compagno di giochi e di studi che aveva fatto la guerra. Nella cucina, tutta piena dei dolci preparati per il ritorno, Don Sebastiano disse che per lui non c'era speranza. Donna Vincenza gli rispose con violenza che egli non conosceva la speranza che per se stesso. Cominciò così la lenta discesa verso la morte. Nel foglio di dimissione dall'ospedale avevano scritto «febbri da strapazzo in un organismo originariamente delicato». Il dottor Manca, fratello di Peduzza, che quando non era ubriaco era un ottimo medico, disse che in breve sarebbe guarito, ma non disse da quale malattia, che restò sempre un mistero. Nel primo mese parve veramente che si rimettesse. L'aria di casa, la presenza costante di Sebastiano, la madre che aveva per lui ritrovato le antiche carezze, saliva due volte al giorno le terribili scale ed egli udiva col cuore in tumulto i tonfi dei suoi passi su per i gradini. Gli avevano ridato un po' di forze, tanto che, pur barcollando, riusciva a scendere nel cortile, dove ritrovava e guardava con occhi nuovi le piccole cose dell'infanzia. Si appoggiava al fratello come a un virgulto. Qualche volta, nello stanzino dove avevano impiantato il piccolo laboratorio, trovava diletto a rivedere i libri che avevano rilegato da ragazzi e riusciva a seguire Sebastiano in qualche lettura dei suoi poeti d'Oriente. com'era lontana la guerra, la trincea, il fango. Tutto sarebbe andato bene se alla sera non fosse arrivata con un'atroce puntualità la febbre. Allora Sebastiano, che non sospettava di nulla, se ne stava accanto al suo letto come per aiutarlo a combattere. Quando guarirò, diceva lui, vorrò farti un bel regalo. Venne il luglio, che seccò accuratamente ogni filo d'erba nella campagna e stese sul nuoro il suo cielo polveroso. Il dottor Manca, che capiva sempre meno per quanto fosse bravo, consigliò di far cambiare aria al malato. Era per i tempi una cosa quasi inconcepibile, perché gli uomini, ricchi e poveri, accettavano le stagioni come venivano. Si pensò al locoi, dove c'era quella stanza sempre chiusa di cui ho detto in principio. Si sgombrarono gli attrezzi, si misero due brande e là i due bambini, perché la malattia di Peppino li aveva riportati entrambi all'infanzia, vissero la loro ultima favola all'ombra del grande pino, tra il mareggiare dei pampini e la compagnia delle lucertole che zio Poddanzu si divertiva ad addomesticare. Il vecchio contadino, che aveva ormai una grande cornice bianca attorno al volto, stava sempre vicino al malato e gli raccontava dei tempi in cui anche lui aveva fatto il soldato. Era una povertà piena di gioia, se non fosse stata quella inesorabile febbre. Zio Poddanzu rideva e li faceva ridere, ma una sera, era già settembre avanzato, disse che sarebbe andato a nuoro e sarebbe tornato un po' tardi. Rimasero soli in un'attesa accorata. Zio Poddanzu andava a nuoro per dire al padrone che suo figlio andava male e bisognava riportarlo a casa. Così pensava nella sua ignoranza. Don Sebastiano, che non aveva dimenticato la sua terribile diagnosi, chiese ancora a Giovanni Maria la carrozza e così avvenne il ritorno. Il malato fu subito messo a letto, sempre accanto al fratello minore, cui avrebbe fatto un bel regalo appena guarito. Il giorno dopo Don Sebastiano si recò alla posta dove Peppino aveva fatto depositare i suoi poveri stipendi da ufficiale e, valendosi della sua autorità, se li fece trasferire sul suo conto. Quando fosse morto sarebbe stato impossibile riscuoterli senza pagare l'imposta di successione e ci sarebbero state mille difficoltà per via degli eredi. Trascorse ottobre, ormai non si alzava più. C'erano nell'aria i chiari segni che la guerra stava per finire. Arrivavano ancora come gocce le notizie dei morti, ma si sentiva che sarebbero stati gli ultimi. Fra il 3 e il 4 novembre Ludovico allontanò dalla stanza Sebastiano, che continuava a non capire, e Don Sebastiano e Donna Vincenza si disposero intorno al letto. Il respiro del malato era ormai un rantolo profondo. D'un tratto, nella piazzetta Mazzini, dove si riuniva la banda del comune, si innalzarono tra il vociare della folla le note dell'inno del Piave. La guerra era finita vittoriosamente. «Senti che musica!» furono le sue ultime parole, e non si capì se alludesse all'inno o al suo travagliato respiro. La morte entrava per la prima volta nella casa di Don Sebastiano, poiché di quelle due bambine morte 30 anni prima il tempo aveva spazzato il ricordo. Un'ondata di panico parve sconvolgere la famiglia. Il gesto di Don Sebastiano, che aveva ritirato il libretto dalla posta, gli fu rinfacciato dai figli come un tradimento, ma Ludovico, che aveva intanto preso la laurea, ammutolì tutti, enumerando le leggi e i regolamenti dei depositi postali, che sembravano fatti apposta per prendere il denaro e non restituirlo. Donna Vincenza non ebbe bisogno di aggiungere altro nero ai panni neri che l'avvolgevano. Le amiche della sua infanzia erano venute a trovarla con i costumi dei giorni di festa e coi visi lunghi e le dicevano che doveva ringraziare Iddio perché si era potuto comporre il suo figliolo mentre tutti gli altri erano stati buttati chissà dove. Donna Vincenza per un poco ebbe pazienza, poi si infastidì e tornò alla sua solitudine, stringendosi all'ultimo nato che avrebbe portato tutta la vita l'ombra di quell'abbandono. Del resto, come era nell'istinto crudele dei vecchi nuoresi, non fu detta una messa, non fu posta una croce sulla fossa e Peppino fu lasciato solo per sempre. La fine della guerra, col ritorno di quelli che erano partiti, poneva naturalmente molti problemi. In fondo, stavano meglio quelle famiglie che piangevano i figli morti di quelle che li aspettavano vivi. Tra queste c'era la famiglia di Don Sebastiano, che aspettava e temeva il ritorno di Giovanni. Veramente le ultime sue notizie avevano aperto l'animo alla speranza, poiché egli era riuscito a prendere la laurea in una università mezzo improvvisata per i soldati, ma comunque l'aveva presa. Quando finalmente arrivò, senza neppure darne l'annuncio, apparve un uomo radicalmente cambiato. Era diventato grosso, rumoroso, e quel che più faceva impressione era trasandato nel vestire. Quel vagabondare di caserma in caserma, quel vivere gomito a gomito con gente che nel richiamo militare aveva trovato un mestiere, che bestemmiava e parlava di donne dalla mattina alla sera, lo avevano sottratto all'atmosfera rarefatta della casa e avevano dissipato il fantasma della giovinetta morta che aveva condizionato la sua esistenza. Non che avesse mutato l'atteggiamento verso la famiglia per la quale, e specialmente verso quel rudere di donna Vincenza, pareva nutrisse misteriosi rancori, ma almeno non stava tappato in casa, anzi era spinto a una continua evasione, a mescolarsi in quel mondo imbastardito che era venuto fuori dalla guerra. Perché quelle migrazioni di popoli che sempre le guerre producono si erano riverberate anche su Nuoro, e se erano partiti gli internati ebrei e gli impiegati che erano rimasti per sfuggire alle restrizioni del continente, erano anche misteriosamente approdati non solo dai paesi della Sardegna, ma anche dalle regioni d'Italia e specialmente dal meridione, torme di avventurieri che non si sapeva che cosa cercassero. Nuoro impassibile inghiottiva tutti, li riduceva alla sua misura, e dopo qualche tempo dimenticavano la loro lingua e parlavano come gli emigrati d'America. Il caffè Tettamanzi si era ricostituito e rimpinguato. Maestro Manca estendeva i suoi tristi lazzi ai nuovi venuti. In mezzo a questa gente Giovanni si era tuffato e pareva provasse gusto a involgarirsi, ma quando tornava a casa si rincupiva di nuovo e si chiudeva nella sua stanza. Ludovico diceva che era un'altra forma di nevrastenia, una forma agitatoria, come quella di prima, era depressiva. Anzi, poiché per coltivare la sua nevrosi si era riempito di libri di medicina, spiegava che c'è una nevrastenia tipicamente familiare, che si manifesta cioè non di fronte ai terzi, ma in seno alla famiglia, dove le resistenze sono minori. Praticamente consigliava di lasciarlo perdere, di far finta di non vederlo. Non c'era altro rimedio. Invece, donna Vincenza non lasciava perdere. Questo figlio che era tornato rumoroso, chiassoso, le faceva più paura di quello che intristiva nella solitudine della casa. Quando calava la sera, si issava brancolando sulla pedana che consentiva di affacciarsi alla finestra della sala da pranzo e là attendeva per ore, nascosta dalle persiane, di udire il passo o la voce che ne annunciavano il ritorno. I frivoli rumori del caffè, tra i quali si distingueva la voce di Bartolino, sempre dominante, circondavano come il ronzare di un bugno la sua opaca figura. Ma ella non sentiva nulla. Appena percepiva il suo passo, scendeva nel buio e si annullava nella sua poltrona. Sapeva che il figlio sarebbe andato in cucina, perché la nevrastenia non esclude la fame, e gli faceva sempre trovare un angolo della tavola preparato con gli avanzi della cena. Egli mangiava, si nutriva. Lei, quando lo sentiva salire frettoloso le scale, usciva dalla sua ombra e iniziava il calvario dei gradini che bisognava superare, uno per uno, per arrivare nella sua stanza. Tutte le sere così, tra le proteste degli altri figli per l'assurdo privilegio. Ed era giusto, che i fratelli protestassero, perché i fratelli sono come i marinai di una nave, e chi non segue la nave nel suo cammino tradisce. Ma era anche giusto che donna Vincenza vivesse in ansia per questo figlio che la disconosceva e la maltrattava, perché essa vedeva con i suoi occhi quel che non vedevano gli altri, e forse nel destino di lui, che correva dietro l'ombra di una fanciulla defunta, vedeva il suo stesso destino. Forse, perché certo donna Vincenza non ragionava su queste cose. Sono io che ragiono, ora che la terra li copre tutti e tutti sono insieme condannati o assolti. In realtà, questo processo di degradazione che Giovanni subiva era il fatale sbocco della sua prima esistenza. La posta è sempre tra la vita e la morte. Quella giovinetta lontana, che nessuno, neppure i suoi parenti, più ricordava, lo aveva per lunghi anni chiamato perché la seguisse, ed era un modo di seguirla il deserto nel quale si era confinato, la disperazione che aveva inflitto a sé e agli altri. La vita di caserma lo aveva spogliato come una biscia della sua personalità, ma gli aveva impedito di morire. Non restava che vivere, cioè abbrutirsi nel lavoro che ti chiude in una corazza di danaro dove i fantasmi non possono penetrare. Era quello che aveva fatto, perché senza dir nulla a nessuno si era presentato agli esami di notaio. Vedeva che don Sebastiano invecchiava e aveva bisogno di un coadiutore. Dopo avrebbe preso il suo posto. Improvvisamente rinsavito, Ludovico aveva ragione, andava in giro con gli abiti pieni di macchie, la barba lunga, indifferente a se stesso e agli altri. Aveva conservato il viso aristocratico, l'alta statura, le mani sottili che stringevano la stessa penna di don Sebastiano. Alla sera contava i denari guadagnati prima di chiuderli nella cassaforte. Non per questo si erano assopiti i terrori di donna Vincenza, che quando veniva qualche cliente lo mandava a cercare per tutto a Nuoro, facendolo uscire dai gangheri. Un bel giorno disse che si sarebbe sposato con la tale. In famiglia fu un gran mormorio, perché i fratelli sentivano anche in questo una imposizione. Don Sebastiano, che era un uomo probo, andò dalla sposa e le disse ciò che era nella realtà il figlio. Ma quella, che si avviava negli anni, rispose che l'avrebbe sposato lo stesso. Questo matrimonio di Giovanni poteva essere per donna Vincenza una liberazione, il passaggio della croce da una mano all'altra. Ma donna Vincenza, che vedeva con gli occhi spenti quello che don Sebastiano non vedeva, capì subito che l'uscita di Giovanni era il principio della fine. La casa dove suo marito l'aveva reclusa era pur sempre una casa. La guerra, che a Nuoro non si era praticamente sentita, l'aveva svuotata e non si sarebbe mai più riempita. Non si trattava di Peppino. I morti non lasciano mai la casa. Si trattava di tutti gli altri figli che la guerra non le aveva restituito, anche se erano sopravvissuti, perché essa doveva ormai misurarsi con le immense cose che avevano visto e si sentiva impari al compito. Erano altri, insomma, come un'altra era Nuoro, lanciata verso l'assurda avventura di una città sovrappopolata di provincia, dove le persone cominciavano a non riconoscersi per le strade. Il baratro della solitudine le si apriva davanti, se almeno le fosse rimasta una di quelle bambine morte, o se le nuore, anche Michele si era sposato lontano da Nuoro, non si fossero messe a figliare. Qualcuna avrebbe potuto aiutarla a reggere il peso della casa, il peso della vita. Ludovico, dopo aver consultato il suo oracolo, pensava di aprire uno studio di avvocato. Pasquale, il solo che avesse fatto tutta la guerra perché era di leva, era tornato e, dopo aver sfogato per le bettole la sua voglia di vivere, pareva si volesse dare ai commerci. Le restava quell'ultimo nato, frequentava ancora le scuole, ma nell'autunno sarebbe andato al liceo, a Sassari o a Cagliari. Come temeva l'avvicinarsi di quel giorno, e aveva ragione, perché quando quel giorno venne, la madre gli preparò il viatico con le buone bistecche impanate e le frittelle spolverate di zucchero. Sebastiano lasciò tutto lì, vergognoso di sua madre, che pure adorava, e partì nel buio della notte come uno ansioso di appartenere agli altri. Don Sebastiano accompagnò alla stazione quell'ultimo figlio mentre l'alba tingeva lievemente il cielo. Egli non si era accorto di nulla. Donna Vincenza rimase nella cucina con la serva a guardare quelle buone cose. Bisognava svolgere dal pacchetto che aveva preparato. Qualcuno le avrebbe mangiate, ma non era questo il problema. Il problema era il rifiuto di un atto d'amore. Il figlio l'avrebbe capito molti anni dopo, lo avrebbe ricordato tutta la vita. Ma questo donna Vincenza non lo sapeva. Sentiva il vuoto intorno a sé. La vecchia ferita riprendeva a sanguinare. Era tornata quella giovinetta che don Sebastiano aveva condotto in sposa e non poteva varcare la porta di casa perché non c'era una mano che l'aiutasse. Toni Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.